realizzazione ci sono probabilmente problemi produttivi, ma anche il fatto che fosse molto scopertamente autobiografico. È il viaggio del protagonista con l'amante attraverso il centro Italia, è un po', probabilmente è una cosa che lui aveva vissuto, però c'è un'intervista in cui Fellini, parlando di questa cosa, dice di essersi molto molto pentito di non averlo realizzato, anche se nella sua produzione successiva, immediatamente successiva, e anche per esempio a Marcord, 8 e mezzo, La dolce vita, si trova traccia di questo trattamento, insomma. E l'altra domanda invece era cosa avete voluto mantenere dello spirito anche dello stile cinematografico di Federico Fellini. Diciamo che è una domanda complicata, perché in realtà dello stile cinematografico di Fellini non c'è niente, siamo concentrati molto sul trattamento, però diciamo nel profondo e alle radici dell'idea si può leggere molto di Fellini, soprattutto nel rapporto ad alcuni elementi che lui ha utilizzato appunto nella fase successiva della sua produzione. Parlo per esempio di 8 e mezzo. Sì. Oppure ci sono elementi simbolici che tornano più volte, che in cui diciamo il richiamo e l'associazione a personaggi di Fellini sono abbastanza diretti. Diciamo che diversi elementi di questo trattamento li ha spalmati poi nelle opere successive in qualche modo. Sì, un po' come il Mastorna, lui diceva che era come una nave inabissata che ha gettato come delle radiazioni sulla sua produzione successiva, visto che ha avuto anche col Mastorna, che è molto più famoso di Viaggio con Anita, hanno seguito lo stesso iter ed è stato depredato e si è scaricato, così anche Viaggio con Anita. Luca, dopo Torino, che destino avrà questo film? Dove? Adesso lo stiamo proponendo, in Italia ha girato parecchio e quindi vorremmo vedere un po' all'estero come va. Adesso stiamo spedendo a vari festival e vediamo. Insomma, quindi per ora sui festival siete concentrati? No, per ora il destino è sui festival. È un film molto molto particolare, insomma, dove diciamo alla ricerca documentaria si unisce anche un po' un procedimento abbastanza particolare di ricerca sul tempo, perché è un film fatto di incontri, diciamo che di incontri e di studio sui luoghi descritti nel trattamento. E questi luoghi e questi incontri evocano in qualche modo la storia. Mm-hmm. E quindi viene messa in relazione il passato degli incontri delle persone nei luoghi, nel contemporaneo, nei luoghi che abbiamo incontrato in presa documentaria, e viene messa appunto in relazione a una storia ambientata nel passato ma fittizia. Sì. Quindi, senti, quindi, Luca. Sì. Stavi concludendo. Volevo chiederti in chiusura anche dove è possibile avere informazioni in rete rispetto al vostro Anita. Il sito è www.docchinè.com. Benissimo. Allora, io spero di sentirti prossimamente per novità rispetto al film, ma anche rispetto a nuove cose. Ok, ti ringrazio. A presto, Luca. Ciao a tutti. Ciao. Luca Maggi, regista di Anita. Visionari su Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. In collegamento dall'autostrada Alessandro Scillitani, regista del documentario Mondo Piccolo. Alessandro, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Ciao a tutti, sono qui. Eccoci. Allora, Mondo Piccolo, cos'è? Ah, è un film ispirato al mondo di Guareschi, che è stato desunto, diciamo, da un libro fotografico, un progetto fotografico di Paolo Simonazzi, che è andato nei luoghi che hanno ispirato le atmosfere dei racconti di Peppone e Don Camillo, e poi noi siamo tornati sul luogo del delitto e abbiamo fondamentalmente raccolto delle testimonianze dirette dalle persone. Alla fine si tratta non tanto di una celebrazione del mito di Guareschi, quanto più che altro di una ricognizione di quei luoghi e di quelle persone che abitano questa fetta di terra fra l'Appennino e il Po, che è così ricca di visionarietà, di bellezza, di aderenza col mondo, forse un mondo che per molti è considerato estinto, in realtà è ancora vivo. Infatti nel film ci sono pochissimi riferimenti alla memoria, è più una memoria dell'oggi, ecco. Senti, e la spinta iniziale a intraprendere questo viaggio come è avvenuta? È avvenuta appunto tramite questo fotografo Paolo Simonazzi, che aveva visto un vecchio ballo di quelli fatti in un rubati, diciamo, una specie di fotogramma subliminale che in una di quelle feste di paese nella Bassa Parmense, e questo, diciamo, che ha dato il via all'idea di andare a riesplorare questi luoghi così particolari, no? Sappiamo che Guareschi è in realtà appunto originario di Fontanelle, di Rocca Bianca, ma poi la sua, diciamo, maggiore popolarità l'ha avuta tramite i film che sono stati girati a Brescello, quindi nel Reggiano, e c'è tutta questo contendersi, diciamo, la paternità dei luoghi che veramente appartengono a questo mondo piccolo. E diciamo che con questa forma, diciamo, di analisi di questi territori, Paolo Simonazzi si è lanciato a cercare delle fotografie che poi sono tornate in vita tramite il film. Ecco, siamo andati a raccogliere molti di questi personaggi che lui aveva fotografato. La scelta di questo titolo? Beh, insomma, è abbastanza semplice, è praticamente il libro iniziale, proprio quello, primo libro di Peppone Don Camillo, si chiama Effetti Mondo Piccolo, e da, diciamo, da adito, diciamo, la prefazione di Guareschi proprio racconta come cioè cerca di definire questo indefinibile mondo, no? Perché poi di fatto si chiede se sia reale, se sia immaginario. Tutto sommato c'è chi cerca di, appunto, come dicevo prima, di dare una territorialità geografica. In realtà, per esempio, mi è capitato di presentare il film in Abruzzo e gente che lo vedeva ha trovato nella realtà, diciamo, contadina, delle loro zone, assolutamente di contatto con quello che veniva raccontato. Quindi, insomma, questo è il motivo per cui abbiamo dato questo titolo. Ecco, vista anche questa comunanza tra diverse aree geografiche rispetto a una realtà di provincia e contadina, ecco, a tuo personale avviso, cosa hai trovato i dati positivi e quelli invece critici rispetto a una dimensione del genere? Ma diciamo che appunto la prima cosa è questa, come ad esempio è capitato che uno spettatore dice quello che avete fatto è bellissimo, perché mia figlia mi dice sempre che queste cose che io gli racconto appartengono soltanto a un passato, a un ricordo che lei non sa nemmeno perché io glielo sia raccontare, invece grazie a voi potrò dimostrargli che addirittura esiste ancora. E quindi sostanzialmente c'è questo aspetto che molti tendono a guardare il mondo, no? Io adesso per esempio sono in autostrada è un, è un territorio, una terra di nessuno, un luogo dove si parte e c'è un punto d'arrivo e non c'è la capacità appunto di soffermarsi a osservare il mondo, e chi è capace di farlo lo fa con una grande autenticità. Quindi ci sono persone straordinarie che sono in grado di mantenere, diciamo, il rapporto con la territorialità e con la bellezza del vivere, con i piccoli gesti che fanno questa Italia minore, che poi alla fine è quella più bella da scoprire. Senti, che sarà di questo documentario? È stato presentato tantissime volte, è stato ospitato anche all'interno di festival e di mostre, che spesso appunto viaggia anche insieme alla mostra fotografica. L'idea sarebbe quello di trovare anche una distribuzione all'estero. È stato distribuito nelle edicole, appunto in qualche negozio specializzato. Noi continuiamo a presentarlo sempre riscuotendo un notevole successo, perché in effetti è un'opera che non si perde nel tempo, quindi questo sarà un po' l'obiettivo. Tra l'altro è stato uno dei 10 documentari portati dai documentaristi dell'Emilia Romagna, dalla DER a Salonicco, quindi insomma ha fatto parte di questo gruppo che certo. È andato all'estero a rappresentare insomma quella realtà. A questo punto io ti saluto, Alessandro, e chiaramente spero di risentirti prossimamente, sempre per novità su questo documentario o su altre cose. Perfetto, assolutamente. Facci sapere poi del percorso di questo lavoro, va bene? Certo. Ciao, okay. Ciao Alessandro. Presto, allora. Ciao. Alessandro Scillitani, regista del documentario Mondo Piccolo. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, per gli sms in diretta 342-357-4357. Ecco noi Enrico Cerasuolo, regista del documentario Ultima Chiamata, le ragioni non dette della crisi globale. Enrico, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Ciao, grazie. Allora, raccontaci un po', mi sembra molto interessante questo già a partire dal titolo, il tuo lavoro. Raccontacelo un po'. È un progetto molto lungo, partito 6 anni fa, ci ho messo un sacco a realizzarlo, e che racconta la storia di un gruppo di persone che nel 1972 fecero uno studio che fu pubblicato in un libro che in Italia fu pubblicato con il titolo I limiti dello sviluppo, e in realtà il titolo corretto sarebbe I limiti della crescita. Sì. E in questo studio loro, con i primi modelli di calcolatori all'MIT di Boston, avevano prefigurato degli scenari possibili per il futuro del pianeta, e la grande attualità di questo studio e di questo libro è che purtroppo si sta avverando lo scenario più preoccupante tra quelli che loro avevano ipotizzato. In sostanza loro dicevano che in un sistema finito come la Terra una crescita infinita non è possibile, e avevano lanciato un avvertimento che nel 1972 avrebbe potuto portare ancora ad un cambiamento di certi fattori e a dei risultati diversi. Tra l'altro era un periodo, già c'era stato il boom del dopoguerra, ancora non si erano verificate le grosse crisi energetiche, però già c'erano state le rivolte operaie ad esempio in Italia, ma non solo, a livello europeo. Dici un po' di più di questo studio. Ma una cosa interessante, ed è anche il motivo per cui lo stiamo facendo noi italiani, sì, è che questa storia ha un'origine italiana, perché il tutto nasce da un manager Fiat che si chiamava Aurelio Peccei, che molto presto, per motivi di lavoro, aveva cominciato a viaggiare in tutti i continenti e fu uno dei primi, molto presto, che capì la globalità dei problemi. Sì. Allora, preoccupato per il futuro del pianeta, piano piano si distaccò dal suo lavoro e raccolse intorno a sé tutta una serie di persone che aveva conosciuto in giro per il mondo e fondò nel 1968 a Roma un club che si chiamò il Club di Roma, perché era stato fondato lì, non per altri motivi. Da questo gruppo, che poi ha, se ancora oggi fate ricerche in internet, è un gruppo che ha scatenato molti misteri, molte polemiche, teorie del complotto, eccetera, ma in sostanza erano preoccupati per il futuro del pianeta e avevano bisogno di un modello scientifico per capire effettivamente come potevano stare le cose. La svolta fu l'incontro con uno scienziato ancora oggi in vita, benché molto anziano, che si chiama Jay Forrester, e lui è stato l'inventore di una scienza che si chiama la dinamica dei sistemi, cioè come sistemi complessi interagiscono fra di loro, ed è stato lui che poi ha disegnato il modello che poi è stato sviluppato e che ha portato a questo studio. È poi stato sviluppato da un gruppo di ricercatori al tempo molto giovani, e io il film l'ho fatto seguendo loro oggi, quelli nel team degli autori che sono ancora molto attivi oggi, che cosa pensano del nostro futuro oggi. Immagino che sia stato anche un riferimento per il movimento cosiddetto della decrescita felice. Volevo chiederti quali sono, in sostanza, anche per essere più semplici, per farci capire da chi ci ascolta e capire io stesso, quali sono i punti critici dei limiti dello sviluppo e quali invece le soluzioni che hanno escogitato questi studiosi? In sostanza loro il problema di base è fondato sul concetto di crescita esponenziale, cioè se tu aumenti una quantità raddoppiandola esponenzialmente, e quindi fai da 2 passi a 4, da 4 a 8, da 8 a 16 e così via, arrivi a un punto in queste moltiplicazioni in cui la quantità si aumenta enormemente, e quindi non è più controllabile, cioè le ultime moltiplicazioni ti stupiscono rispetto al prima e diventano delle quantità enormi. Questo rende la crescita potenzialmente incontrollabile, diciamo, e questo oggi è soprattutto preoccupante rispetto alla crisi climatica e alla possibilità che a un certo punto la crisi climatica non sia più controllabile. Sì. E dall'altra parte c'è il discorso sull'esaurimento delle risorse, che però è più complicato, diciamo. Sì. Però la vera preoccupazione attuale è la crisi climatica. L'altra cosa interessante loro è che hanno una visione sistemica, per cui per loro una crisi non è da vedere nella sua singolarità, ma è un sintomo di una crisi globale legata a questa finitezza e a questi limiti della crescita. Per cui dal loro punto di vista le crisi che stiamo vivendo e che facciamo fatica a capire e che ci vengono costantemente presentate dai mass media come crisi separate, in realtà sono parti di una stessa crisi. Quindi la crisi del cambiamento climatico è legata in realtà per loro alla crisi economica e finanziaria, ad esempio. E possibili soluzioni sono state individuate? Ci sono diversi atteggiamenti fra gli autori. Uno di loro è molto pessimista e dice che mentre per 40 anni ha, diciamo, lottato per la sostenibilità, oggi non è più possibile avere la sostenibilità come obiettivo perché ormai è una fantasia, e quindi lui ha, diciamo, suggerisce due vie e si concentra su il concetto di resilienza, cioè la capacità di assorbire, di affrontare e di assorbire le crisi a livello locale, a livello nazionale, a livello globale, e quindi studia soluzioni per affrontare le crisi, e dall'altra parte suggerisce di distinguere fra problemi globali, quelli contro cui lui e gli altri si sono scontrati per 40 anni senza riuscire a risolverli, e problemi invece universali, perché dice che i problemi universali come la qualità dell'acqua o dell'aria nella tua città o altre cose sono dei problemi che tu puoi affrontare e cercare di risolvere, e puoi vederne i risultati e toccarli con mano. Mm-hmm. E quindi lui dice la gente più facilmente lotta per qualcosa che può toccare. Certo. Mentre invece quando si scontra con problemi troppo più grandi, ti scontri con problemi troppo più grandi di te, è difficile che la gente lo faccia e che i politici lo facciano, eccetera eccetera, perché i risultati sono troppo lontani nel tempo. Enrico, dove sarà possibile vederlo? L'anteprima sarà il 1° giugno a Cinema Ambiente, e siamo in concorso, e Cinema Ambiente che è stato fin dall'inizio parte di questo progetto, perché sono loro che ci hanno raccontato 6 anni fa questa storia che poi noi abbiamo tra l'altro sviluppato. Li sentiremo la settimana prossima, giovedì prossimo, proprio quando inizierà il festival. Come ogni anno ci metteremo in collegamento con loro, poi andrà in diverse televisioni, la principale delle quali è Arte, che fortunatamente esiste, altrimenti non riuscirei mai a fare il documentario, e poi speriamo che piano piano si diffonda anche in Italia, ecco, spero. Bene, bene. Allora seguiremo i vostri passi, Enrico, e ci sentiamo prossimamente. Va bene, ti ringrazio molto. Un abbraccio, ciao. Ciao. Enrico Cerasuolo, regista del documentario Ultima chiamata, le ragioni non dette della crisi globale. In collegamento con Paola Terracciano, regista del documentario Sola mai più, è giusto il titolo, vero Paola? Sì, giusto. Benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Di questo lavoro ne avevo saputo tramite un'amica che è all'interno di un'iniziativa contro la violenza sulle donne. Allora, Sola mai più, di cosa ci parla? Allora, che dire, innanzitutto Sola mai più è un documentario che ho realizzato in collaborazione con Solidea e Donna e Politiche Familiari, e questo documentario affronta il tema drammaticamente attuale della violenza domestica. Sì. E la violenza domestica in Italia è un fenomeno enorme, nonostante purtroppo secondo me non ci sia questa percezione del fenomeno, eppure per rendersi conto della gravità della situazione basta, secondo me, prendere in esame 2 dati importantissimi. Il primo è che ogni 2 giorni in Italia una donna muore per mano del compagno, del marito, di un parente. Il secondo, ancora più emblematico, è che la violenza domestica è la prima causa di morte delle donne in Italia, in sostanza più del cancro. Che dire, le prime volte che mi sono scontrata con questi dati all'inizio mi veniva da chiedermi perché, come fosse possibile, mi parevano inconcepibili. E ricordo anche la prima volta che ho parlato con la donna che racconta la sua storia nel documentario, storia che poi è il filo rosso di tutto il documentario. Ad un certo punto le ho chiesto se le andava di raccontarmi degli episodi di violenza domestica, e mi ricordo che la sua risposta è stata, la cito: mio marito mi picchiava per motivi banalissimi, a volte mi picchiava per quello che avevo cucinato, l'ultima volta ho ricevuto un pugno in pieno viso all'altezza della bocca perché mi ero azzardata ad accendere il termosifone. Allora la bocca ha cominciato a sanguinare e non finire. Mia figlia di 5 anni ha assistito alla scena. Nonostante fosse spaventata, è venuta subito in mio soccorso e ha iniziato a tamponarmi la bocca con dei fazzolettini. Quindi, tornando poi al discorso del perché, poi vai un po' più in fondo nelle storie e capisci che il problema di queste donne è che spesso sono recluse in una condizione di solitudine, è quella la trappola alla fine, e questo le condanna per anni, a volte per sempre. La storia infatti che viene raccontata nel documentario è una storia che dura 20 anni, ed è per questo che il documentario si intitola Sola mai più, perché molte donne non sanno che invece esiste una rete di aiuti alle donne vittime di violenza, e non sanno che in alcuni pronto soccorso ad esempio esistono degli sportelli H24. Qui a Roma ad esempio c'è lo sportello donna H24 a San Camillo Fornanini, che offre un primo soccorso sia alla donna che viene spedita al pronto soccorso dal marito o da chi per lui, sia alla donna che si presenta spontaneamente allo sportello. Molte donne non sanno che esistono dei centri antiviolenza, come per citarne uno, Differenza Donna, sempre qui a Roma, che sono pronti ad accoglierle, ad accogliere anche i loro figli, e ancora non sanno che esistono associazioni come Donna e Politiche Familiari, ad esempio, che offrono sostegno psicologico e legale alle donne vittime di violenza e le aiutano anche nel percorso che è piuttosto complicato, che è quello della denuncia. E in sostanza nel documentario abbiamo affrontato un po' tutti questi aspetti. Sì. Infatti dico sempre che Sola mai più è un documentario molto pragmatico, con pochi orpelli. Sì. Un documentario che non racconta solo una storia, ma dà anche delle informazioni pratiche sul percorso di fuoriuscita dalla violenza. Sì. Credo che questo sia importante. Eh sì, anche perché oltre all'informazione l'altro discorso sarebbe quello sulla prevenzione, ma certo. Culturalmente è un problema, perché insomma si continua a agitare lo spettro della sicurezza quando poi il nemico invece è tra le mura domestiche, è dentro casa, è nel privato, e quindi non se ne esce. Infatti, purtroppo poi il maggior rischio è proprio lì, fra le mura domestiche, e questa è una cosa abbastanza inquietante. Paola, che circuitazione avrà questo Sola mai più? Allora, questa è una bella domanda, una nota un po' dolente magari. E, diciamo che noi abbiamo fatto delle proiezioni. Sì. E una è stata fatta alla Casa Internazionale delle Donne, appunto, e un'altra di recente è stata fatta ai Musei Capitolini, al Campidoglio, e devo dire che hanno entrambe le proiezioni riscosso un discreto interesse, insomma, magari cosa che magari non ci aspettavamo neanche. E adesso siamo, diciamo, non esiste sicuramente per il momento una distribuzione, purtroppo, e siamo in contatto con la Repubblica.it, che ce l'aveva chiesto, ma insomma ancora tutto da definire in sostanza. Però probabilmente potrebbe essere a breve lì. Sicuramente organizzeremo delle altre proiezioni, perché non ci fermiamo comunque. Certo. Infatti volevo chiederti se c'è in rete qualche riferimento per saperne di più. Guarda, io volevo lasciare dei contatti, che sono quelli dell'associazione Donna e Politiche Familiari. Intanto si trova anche su Facebook la pagina di Donna e Politiche Familiari, e quella forse è la cosa più accessibile, perché comunque lì mettiamo sempre informazioni relative a proiezioni, eccetera eccetera. Sì. Poi posso lasciare anche dei recapiti, se me ne dai la possibilità. Sì, come no, certo. Allora, il numero di telefono, che è 06 68 80 95 50, e anche l'email, che è info@donnaepoliticefamiliari.org. Bene. E quindi per qualsiasi informazione ci si può rivolgere a questi recapiti che ho lasciato. E io volevo anche approfittare della situazione per dire che noi comunque stiamo anche cercando di realizzare un altro documentario sempre sullo stesso tema, ma un po' diverso, perché come ti dicevo, Sola Mai Più è, come dire, quasi più un documentario di servizio, sì. Mentre adesso vorremmo farne un altro che abbia un respiro anche più, passami il termine, autoriale, cinematografico, e quindi cerchiamo, intanto approfitto della situazione per dire, cerchiamo degli sponsor, stiamo cercando, e ma non solo, stiamo cercando anche delle storie di donne, quindi se ci fosse qualche donna in ascolto che è interessata a raccontarci la sua storia, può utilizzare sempre quei canali che ho lasciato, insomma. Bene. Allora Paola, tienici informati, nel frattempo un abbraccio e buone cose per questo Sola Mai Più. Grazie, grazie mille. A presto. Farò sapere, grazie. Certo. Ciao Paola. Ciao, ciao. Paola Terracciano, regista del documentario Sola Mai Più. Di nuovo, per contattarci, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Le informazioni le trovate sulla per quanto riguarda la scaletta di quest'oggi, ma anche per le puntate un po' più indietro nel tempo, sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari. Ben ritrovato Tommaso D'Elia, eccoci qui. Buongiorno a voi, buon pomeriggio a tutti. Allora, in questo caso per parlare di un documentario che hai portato al Festival delle Terre l'altra settimana, Kai e Miguel Claro, per parlare anche un po' più in generale di quella serata, di quell'ambito in cui avete presentato questo lavoro. Intanto parliamo di questo vostro lavoro, dell'argomento in questione. Sì, dunque Caglie Miguel Claro è un documentario del 2006, molto interessante, perché ripercorre un po' da una parte la storia dell'ambasciata italiana a Santiago del Cile dal settembre del 73 al maggio del 75. Ambasciata dove si sono rifugiati oltre 600 persone ricercate dal regime Pinochet, hanno trovato asilo e la storia interessante è che tutte sono state portate via dal Cile, salvate dall'orrore cileno. E noi in tutta la prima parte del film facciamo una ricostruzione un po' storica di quell'avvenimento. Poi, incontrando Miguel Littin, che insomma è un regista molto importante, che aveva per l'appunto fatto Acta General de Chile, un film di 4 ore girato in clandestinità nell'85 con varie troupe, e ci siamo dedicati non solo alle ricostruzioni storiche ma anche all'attualità del Cile dopo le dittature, insomma la dittatura. Quindi è stato un lavoro molto molto interessante. Tornando all'ambasciata, Tommaso, si mosse in maniera del tutto autonoma, vista anche la politica internazionale in quel momento rispetto al Cile, al golpe di Pinochet? Sì, no, anzi, devo dire, dunque, la storia dell'ambasciata è una storia curiosissima, nel senso che loro praticamente vengono incastrati dall'11 settembre dal golpe cileno esattamente senza ambasciatore, e quindi c'erano facenti funzioni, ambasciatore che si chiamava all'epoca Tommaso De Vergottini e primo e secondo di cui uno è sostanzialmente Roberto Toscano, che è stato come dire un po' la voce narrante del documentario. No, la cosa interessante è che tutta questa gente è stata salvata perché dall'Italia il governo voleva che queste persone venissero portate via dal Cile. Quindi una delle persone a cui si deve fortemente questo è stato Aldo Moro, all'epoca ministro degli esteri, che ha portato via tutta quella gente, insomma. Tommaso, quindi, nel... insomma, diciamo che tutto, se vai e parli col ministero degli esteri, loro non ti dicono che questi sono stati degli errori, insomma, ti dicono unicamente che è stata gente che ha fatto il proprio dovere, ma quel proprio dovere, come dire, aveva una copertura di politica internazionale italiana, ecco, diciamo. Senti Tommaso, allora lo avete presentato in una serata in cui è stato programmato anche un altro documentario. Una serata bellissima, ti interrompo perché appunto, cioè, da una parte il film che ha aperto era il nostro, che è un film tutto di pancia, insomma, emotivo, empatico, eccetera. Subito dopo c'è stato il film di Augusto Gongorra, cileno, che è Cile due punti, immagini di un paese, immagini da un paese invisibile, girato nell'89, per l'appunto girato durante il referendum sì no al governo Pinochet, che chiedeva appunto sicuro, tronfio del proprio successo, referendum popolare per continuare, insomma, il governo. Ed è stato battuto in quel referendum, quindi dire, questo documentario fantastico racconta esattamente gli spot televisivi, teleanalysis, che avevano pochi minuti al giorno, come dire, per legge, insomma, potevano dire delle cose, ed è stato molto interessante. Peraltro c'è questo film cileno ora, esatto, che era proprio 9 giorni dell'arcobaleno, che appunto è un film tra quel lavoro di Augusto, insomma, molto importante, molto bello, anche molto leggero, molto allegro, quindi ecco, diciamo che nella serata cilena questi due contrasti hanno funzionato particolarmente bene. Sì, anche uno dei motivi che ci ha spinto a parlarne oggi del tuo lavoro, Tommaso, ti ricordi? Sì, ne avevamo parlato, sì, al telefono, era anche perché c'era l'occasione di avere il film in sala, no? I giorni dell'arcobaleno, che, esatto, si riferiva al documentario di cui hai appena parlato. Una delle, delle caratteristiche di quell'esperienza referendaria in Cile, Tommaso, è che al di là della denuncia su quello che aveva comportato in termini di repressione, ma non solo, anche di crisi economica, il governo militare pinochettiano, è stato anche l'aver affrontato quel referendum con gioia, in qualche modo, per far emergere una voglia di vivere, di superare questa pagina oscura della storia. Senz'altro, questo senz'altro, ma devo dirti che è stato anche un vero e proprio esercizio televisivo, sì, anche di un'attualità in questo momento per tutti noi estremamente potente, insomma, di quanto lo strumento televisivo, la potenza dello strumento televisivo indirizzata su degli stati d'animo piuttosto che su altri, può sicuramente influenzare fortemente, come dire, l'opinione pubblica. Per cui non so, ci sono stati questi dibattiti tra i compagni che lavoravano intorno a questo progetto, dicendo: ma come, noi andiamo a raccontare in maniera spiritosa qua il dramma di tutti i morti, della gente che non è mai più tornata, eccetera eccetera, no? Sì, e per sì, cui sì, era anche proprio l'ho trovato veramente molto didattico, propedeutico all'idea che la televisione ha una forza ancora estremamente rilevante, insomma. Anche perché i militari si erano comunque rivolti a dei pubblicitari per sostenere il proprio referendum, però poi vinse in quel contesto la loro ottica retorica, per cui non diedero neanche troppo retta ai pubblicitari e puntarono sulle scelte sbagliate, per fortuna poi della storia, insomma. Sì, perdenti. Beh, bello questo, perché poi in definitiva, come dire, tra virgolette, ovviamente, però è stato proprio uno scontro di tendenze pubblicitarie, che chi si interessa un po' d'immagine la fa, la usa, eccetera, sa quanto potere hanno i messaggi attraverso, certo, le immagini, certo. E questo penso che sia stato veramente una cosa molto bella che il Festival delle Terre ha fatto. Insomma, l'ho apprezzato molto, ecco. Mm-hmm. Tommaso, invece, per quanto riguarda i tuoi lavori, ci sono delle novità di cui potremmo parlare prossimamente? Sicuramente sì. Sto facendo un lavoro sul ventennale sui vent'anni del Festival Rototom Sunsplash, che è un festival tra i più grandi del mondo di musica reggae, che è stato cacciato all'Italia e che oggi risiede in Spagna. E è un lavoro che abbiamo iniziato già l'anno scorso, insomma ci vedrà ancora parecchio in produzione. Ne parleremo. Ne parleremo. Senti, invece, Calle Miguel Claro, dove sarà reperibile per chi volesse vedere? Dunque, no, Calle Claro è in rete e in rete. Può benissimo vedere tranquillamente dal sito di arcoiris.tv. Si cerca Calle Miguel Claro 59 e si vede anche molto bene in streaming tranquillamente. Tommaso, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie, in bocca al lupo a voi per tutto. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Tommaso D'Elia, regista del documentario Calle Miguel Claro. Matteo Barzini, coregista del documentario Mayday, scritto proprio così come si pronuncia, ma tra parentesi c'è Mayday. Matteo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve, salve a tutti. Allora, che storia racconta questo documentario, Matteo? Allora, questo documentario racconta la storia di sei ragazzi, ragazzi minorenni, tutti detenuti sia nel carcere minorile di Nisi da Napoli che in comunità, appunto, diciamo, comunità per reati penali. Questi ragazzini, molti dei quali sono, diciamo, figli di camorristi, hanno avuto la possibilità per 7 mesi attraverso un progetto finanziato da Mascalzone Latino, il comune di Napoli e una di queste comunità, appunto, per ragazzi per recupero di minorenni, hanno avuto la possibilità di prepararsi per una regata storica napoletana che si chiama la Regata dei Tre Golfi. Sì. E quindi, diciamo, noi abbiamo seguito per 7 mesi questa loro preparazione a questa regata, appunto, in cui, insomma, hanno imparato le basi della vela e si sono preparati e poi hanno gareggiato a questo evento. Tra l'altro, insomma, si sono collocati anche molto a buon livello, perché sono arrivati 35esimi su 70, quindi, insomma, è stata sicuramente un'esperienza, penso, per loro sicuramente unica, ecco. Matteo, quante persone ha coinvolto e che fascia di età avevano? Allora, erano tutti, il più giovane aveva 14 anni, il più grande aveva 17, e erano in 6. Noi, ovviamente, insomma, il documentario non certo segue questa loro preparazione, ma ovviamente entra anche molto nelle loro vite personali, certo, nelle loro storie sicuramente di disagio, di difficoltà, insomma, hanno tutti delle storie molto molto molto particolari alle spalle. Mm-hmm. Niente, questo è, siamo molto affezionati ovviamente dopo questo lungo periodo che abbiamo passato insieme, siamo molto affezionati a questi ragazzi, bambini direi, che vivono in una realtà, ecco, che noi difficilmente ci immaginiamo, ecco, sì, se non dopo aver visto magari Gomorra o insomma quel poco che emerge di Napoli. Ma sicuramente io sono cresciuto a Los Angeles da ragazzino e ho trovato delle similitudini tra Los Angeles e Napoli. Sembra strano, ma in realtà ci sono delle cose che legano, diciamo, le parti più degradate degli Stati Uniti con una città come Napoli. Mm-hmm. Noi non facciamo fatica a capire esattamente cos'è Napoli da Roma, anche se è a due passi, sì. Insomma, le storie sono abbastanza toccanti. Matteo, si è trattato di un esperimento a sé stante oppure all'interno di un progetto più articolato che avrà un futuro? Assolutamente all'interno di un progetto più articolato, che è il progetto Jonathan. Jonathan è una comunità che si trova a Scisciano. Enzo Morgera e Silvia Ricciardi sono i fondatori di questa comunità, che da più di 15 anni appunto si occupa della reintegrazione di minorenni a rischio nella zona di Napoli e dintorni. Questo è il terzo anno del progetto, è stato il terzo anno di questo progetto Jonathan Vela, che sicuramente continuerà nei prossimi anni. Dato appunto il successo, insomma, è stata una cosa sicuramente che ha aiutato, più che aiutato a integrare, credo comunque che abbia dato un'altra visione della vita a questi ragazzi. Diciamo, la vela poi è uno sport di elite, quindi vedere il giorno della regata, vedere questi ragazzi così immersi in questo mondo completamente diverso da quello che è le loro vite, è sicuramente una cosa curiosa, insomma. Mm-hmm. Mischiare la vela con persone che insomma sicuramente non avrebbero mai avuto questa possibilità. Allora, è stato presentato al Rome Independent Film Festival e poi, Matteo? E adesso stiamo seguendo gli iter dei festival, diciamo, quello è stato il primo e adesso cominceremo appunto le spedizioni e speriamo insomma che verrà accolto qualche altro festival, poi vedremo, insomma, questo però questo è stato il primo festival, ecco, quindi adesso ci sarà tutto il resto dell'anno per spedirlo in giro. Mm-hmm. Chiaramente i ragazzi come immagino l'abbiano accolto molto bene come lavoro dedicato, insomma, alla loro esperienza. Assolutamente, i ragazzi erano entusiasti e devo dire si sono, ma questo sicuramente anche grazie al fatto che siamo stati molto tempo con loro, ecco, ci hanno veramente, si sono aperti molto. Mm-hmm. ci hanno raccontato molto schiettamente quello che significa la camorra. In questo documentario ci sono delle interviste in cui appunto ci raccontano veramente come funziona, come si muove, il loro rapporto con il fenomeno. Dei sei ragazzi, tutti e sei avevano almeno un genitore in carcere, alcuni addirittura l'intera famiglia. Mm-hmm. Un altro ragazzo, il padre era morto, sparato quando era giovane, quindi insomma, sicuramente sono realtà che insomma, difficilmente immaginabili nel resto d'Italia, credo, insomma. Mm-hmm. È una situazione unica. Certo. Per avere informazioni online c'è un sito di riferimento? Lo stiamo facendo, per ora non c'è, però sicuramente insomma scrivendo Medè, Matteo Barzini, Francesco Ricci Lotteringi, che è il mio co-regista, escono fuori insomma i vari articoli, sono usciti parecchi articoli, perché oltre al RIF il documentario è stato anche proiettato in alcuni eventi giù a Napoli, per esempio nello stesso carcere minorile di Nisida c'è stata una proiezione con tutti i ragazzi detenuti, è stato molto bello. È venuta anche la Repubblica, che ha scritto un articolo, poi è stato proiettato a Villarbusto, a Ischia, anche là erano presenti i giornalisti della Repubblica, c'è stato un lungo servizio che ha fatto il TG2, Costume e Società, in cui ci sono molte immagini del film, ci sono, insomma, ci sono articoli che ne parlano estensivamente, per fortuna insomma siamo riusciti un po' a farne parlare. L'idea adesso sicuramente di seguire altri festival. Bene, allora Matteo, a risentirci presto, un abbraccio. Grazie a voi. Arrivederci. Matteo Barzini, co-regista del documentario Mayday. Allora, un ultimo collegamento con Mauro Santini, regista del documentario Il fiume a ritroso, presentato al Festival del Cinema di Roma. Mauro, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Ciao, buongiorno. Ciao. Allora, raccontaci un po' di questo racconto, Il fiume a ritroso. Sì, tu hai detto documentario, è effettivamente un film che, come il cinema che faccio ormai da anni, è a cavallo tra documentario, finzione, è una parola davvero lontana dal mio cinema, devo dire. E in effetti è un film che nasce sulla traccia salgariana per la produzione di Giovanni Maderna, il quarto film. Si tratta di quattro film che abbiamo realizzato io, Maderna, De Bernardi e Cioni, sulla base del romanzo di Salgari, Yolanda, la figlia del Corsaro Nero, e con una rilettura nel contemporaneo, appunto, dell'eroina salgariana. Nel mio caso si trattava di raccontare la parte del romanzo in cui Yolanda diciamo ripercorre, si trova a seguito di un naufragio a salvare Morgan e diventare in qualche modo donna. Poi il romanzo terminerà col matrimonio tra i due, e questa rilettura nel contemporaneo è stata per me un'occasione per lavorare con una ragazza ormai quasi donna, circa trentenne, che però diciamo attraversava un periodo di difficoltà, e mettere in rapporto questa figura che conoscevo con un naturalista, invece uno studioso di animali selvatici, uno studioso dei lupi, una persona abituata al buio, a vivere in solitario, e che quindi rappresentava oggi, secondo me, una sorta di equivalente corsaro, ecco. Mettere in rapporto queste due figure che non si conoscevano è stato un po' un tentativo, appunto, di rileggere in forma quasi documentaristica una traccia invece narrativa. Mauro, cosa ti incantava, ti attraeva dello spirito salgariano? Ma è un senso di avventura, diciamo che lo spunto iniziale era quello comunque sia di mantenere un... Con Giovanni si parlò allora di uno spirito, diciamo, pop, no? Un po' quello che Salgari ha rappresentato per i lettori del suo tempo. E questa avventura, nel mio caso, si è trattato di risalire un fiume, appunto, ritroso dalla foce fino alla sorgente, e con tutto quello che comportava, insomma, più che altro l'avventura nel mio caso è stata quella, come sempre per quanto mi riguarda, di girare ogni scena senza sapere mai che cosa succederà, sempre pronto a deviare, a seguire le circostanze che si verificano. Io ho sempre fatto un cinema che non prevede sceneggiatura, che prevede semmai la creazione di una situazione e poi la verifica nel momento stesso della ripresa di ciò che succederà tra le persone o nelle cose che vengono riprese, insomma. Diciamo le dinamiche sono completamente libere, le dinamiche che poi si creano tra gli interpreti sono completamente libere, dunque. Sì, completamente libere. In questo caso si è trattato di passare, appunto, una decina di giorni, mettere in relazione due persone che non si conoscono e verificare poi alla fine delle riprese che effettivamente era successo qualcosa nella ragazza, che la sicurezza che io avevo pensato che Andrea Gazzola, che appunto è il protagonista maschile, potesse infondergli, effettivamente è stato il segno, diciamo, è stato un po' l'evento che è successo dal momento che tu parlavi di documentario nell'atto, diciamo, delle riprese. Quindi è stata a tutti gli effetti una storia di formazione in qualche modo. Un po' come nel film Yolanda, da ragazza di 16 anni diventa donna e finisce per sposare Morgan, di molti anni più grande di lei, e così nel film Nicoletta, terminate le riprese, era davvero una ragazza pronta a sostenere la tesi di laurea che doveva sostenere alla fine del film, alla vita. Quindi è stato un bel modo per mettere insieme, ecco, due persone che non si conoscevano, per verificare che cosa sarebbe successo tra loro. Dove sarà possibile vederlo? Ma dopo il Festival di Roma c'è stata qualche proiezione, si sta cercando di dargli anche un circuito, sai, poi per un film di 50 minuti è sempre un po' difficile trovare la situazione giusta, spesso gli stessi festival non prevedono, diciamo che i festival di metraggio sono in numero molto minore rispetto a quelli di corto o di lungo, e anche nella sala 50 minuti è sempre difficile da pensare a un film se non ci aggiungi qualche cosa, però si sta cercando di costruire un minimo circuito. Avete dei riferimenti online per chi volesse saperne di più? Dunque, online c'è il sito Quarto Film, e altrimenti c'è maurosantini.wordpress.com. Benissimo. Allora Mauro, a risentirci prossimamente. A presto e grazie per l'invito. Un abbraccio. Ciao. Era Mauro Santini, regista del film documentario Fate Voi, Il fiume a ritroso, e con questo chiudiamo la trasmissione di quest'oggi. Visionari torna giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Tutte le info le trovate sul sito internet della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 23 maggio. I nostri suggerimenti, indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo, gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia tra proiezioni, anteprime e festival o rassegne, e poi il link che rimanda alla puntata precedente e a tutte quelle del 2013 e del 2012.